se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Hai capito, Umberto? È il marchese Bellotti Spighi. Ma davvero? Proprio in persona? E chi se ne frega, non ce lo metti? Ministro, buonasera. Buonasera, cosa pensa di fare? Si dimette, ministro, come chiedono le opposizioni? No. Giovani democratici, quindi persone del vostro partito, chiedono le dimissioni del ministro Poletti. Il ministro Poletti si è scusato, c'è stata anche una discussione su questo punto. Credo che la frase fosse particolarmente infelice e credo che il ministro abbia fatto bene. Però i giovani... Quando hai parlato Poletti, ho visto che hai fatto così. Cioè, non capisco perché non si è dimesso, perché non l'hanno cacciato. Quello va, si deve dimettere subito, perché un uomo che dà sputa in faccia a tutti i ragazzi disoccupati d'Italia. Ha sbroccato il cervello, mancava anche rotella, ha mangiato troppi tortellini. Oh, happy day. Oh, happy, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Poletti, come titolo al manifesto, il precario. Non è precario, lui proprio con la sua palata romagnola. Mi rimetto, no, no, rispondo, no. Oggi tutti i giornali, devo dire anche giornali come Repubblica, non so, Michele Serra, sulla Maca, basito, effettivamente da tre giorni non si capisce esattamente a chi si riferisse Poletti. Non, l'ho detto mille volte, mannaggia, perché tutti si concentrano sulla prima parte della frase quando ha detto non è vero che se ne vanno sempre i migliori, e su questo il ministro Poletti può avere mille volte ragione. Ma quando poi ha aggiunto con livore ci sono delle persone che è meglio che sono andate via dall'Italia e che se ne stiano fuori dai piedi, non si capisce veramente a chi si riferiva. Forse si riferiva al mio amico Remo, che ci scrive dalla Dig. Come stai, Remo? Ci dice che alla Dig il sole splende, 32 gradi, umidità 80%. Forse Remo, che fa il cuoco lì alla Dig col suo ristorante, forse si riferisce a te. Caro Remo, si riferisce a te, secondo me, Poletti. Meglio che Remo se ne stia fuori dai piedi, via dall'Italia. Con disprezzo anche. Però Poletti, nonostante anche all'interno del PD qualcuno dica faccia chiarezza, no, niente. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. Oh, really was. Really was. Vabbè, alle 6:34 minuti siamo qui. Poletti è tranquillo, lui canta come cantava Radio Rock. Negli anni del secolo, macchinista ferroviere. Aspetti, quando diventa giallo? Tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti. Sembrava il treno anch'esso un mito di progresso lanciato sopra i continenti. Lanciato sopra i continenti. Che voglio dire anche come cantante. Lanciato sopra i continenti. Ok. Gli amici di Radio Rock, ok, che era un po' come di ok, basta. Ministro, va bene così. Allora, voglio salutare subito la mia amica Stefania Cavallaro, buongiorno. Buongiorno Alessandro, sono un po' raffreddata, quindi tu, perdona sono, il tono di voce. Io sono conciato da sbattere, mia, come si suol dire. Allora, ormai quando va in onda il terzo indizio? Che carino, guarda, il terzo indizio va in onda l'ultima puntata di questa stagione venerdì sera, l'ultima, molto molto bella. Un po' di sangue alla vigilia di Natale, mi sembra giusto. Sì, insomma, una riflessione, facciamo una riflessione alla vigilia di Natale. Il mio problema è che io adesso vado in onda col telegiornale, e come farò ad andare in onda con questa voce? Ma Questo è un po' un problema, sì, però fai la muta, così fai la ventriloqua, faccio la ventriloqua, sai, non ho un padre che mi permette di avere 500.000 euro di fondi pubblici per fare un giornale senza voce. Adesso parliamo anche del figlio di Poletti. Allora, insieme a Stefania Cavallaro, giornalista di Studio Aperto, e voglio salutare anche il nostro filosofo, scrittore Franco Bolelli, tornato dagli Stati Uniti. Buongiorno Bolelli. Buongiorno. Come sta? Giornata. Come sta? Tra non l'altro, ho una voce così bella come quella di Stefania, ma ci sono. Voglio ricordare anche il nuovo libro di Bolelli, giusto? Più donna, più uomo, un manifesto vitale. È giusto questo? È giusto il titolo? Anche se mancano ancora 3 settimane all'uscita, però il titolo è quello lì, sì. Vabbè, insomma, ce lo fai. Per creare l'attesa, capisco. Per creare l'attesa, esatto, per creare l'attesa. Tra 3 settimane, mentre apriamo il Parlamento, ci sarà ancora un ministro del lavoro. Ragazzi, sei un maestro, che è ministro del lavoro, che è sotto attacco adesso per questa cosa. Allora, caro Bolelli, tra l'altro ha un figlio, penso di non svelare nulla di segreto, ci ha detto lei, un figlio che vive negli Stati Uniti, che sarà andato a lei, uno di quelli che Poletti magari si riferiva a suo figlio, che ne sa lei, di quelli che è meglio che se ne stiano fuori dai piedi, lontano dall'Italia. Che ne sa Bolelli, magari? No, chi lo sa, certo. No, non credo proprio, così a naso mi salino. Non conosce il ministro. Credo di no. Ma chi è che gli avrà fatto questo sgarbo da volerlo così fuori dai piedi? Quelli forse che non hanno votato al referendum? No, io credo che veramente ci sia una tendenza, che a me piace molto evidentemente, anche da parte di politici, a provare a fare delle battute, cioè a non essere ingessati, a sdrammatizzare tutto quanto. Il problema è che bisogna essere anche capaci. Nel suo caso ha preso una scivolata impressionante, un rigore sparato in curva proprio. Sì, come la chiama Michele Serra, una tendenza all'autodistruzione a volte. Cioè, sì, io non lo drammatizzerei, nel senso che trattasi di battuta molto molto infelice, non ne farei un caso straordinario, e tantomeno fare quelle cose successe ieri, come metterlo in rapporto con la povera ragazza di Berlino, perché veramente quello è infame. No, vabbè, certo, quello cosa c'entra? E c'è da dire che quindi niente dimissioni per una cosa del genere, lei dice no, bene. Cioè, per altre cose sì, non per questa, certamente no. Però effettivamente c'è una figura tragica, secondo me è tragica proprio da tragedia greca, cioè il figlio di Poletti, con tutto l'affetto, che almeno, cara Stefania, dovrebbe fare una cosa secondo me in questi casi. No, secondo me in questi casi uno deve fare una sola cosa, una: muto. Cioè, stai, come diceva Prodi, ci ha provato. Allora dai, posso una lancia a suo favore, devo dire che un ragazzo 42 anni, ragazzo, che ho quasi 42 anni, che lavora in una redazione che viene massacrato di telefonate tutto il giorno, perché ieri è stato così nel suo giornale, adesso magari le prime due prova a rispondere, a difendersi, poi molla il colpo. Dopodiché io insisto dicendo che se io fossi in lui probabilmente sarei uscito dalla stanza dove stava facendo il suo bel giornalino e me ne sarei andata 5 minuti dopo. Cioè, quello è il gesto da fare. Me ne vado, perfetto. Più che altro, la questione è che appunto ha rilasciato questa tragica intervista ieri al Fatto Quotidiano, che già voglio dire, poi al Fatto Quotidiano, il giornale che più ha scelto quello giusto, che più attacca tuo padre, rilascia un'intervista e dice sì, prendo soldi pubblici, lavoro a un giornale delle cooperative, ma è laureato, no, mi manca qualche esame, ho 42 anni adesso, vedo di finire, e oggi rilascia nuove interviste alla stampa, cerca di mettere delle pezze, dovrebbe vabbè, insomma, Bolelli, questo succede, vabbè, la derubrichiamo a scivolone natalizio. Che dobbiamo... Sì, non la farei più grossa di così. Esatto. In tutto questo, oggi se prendete i giornali troverete che questi tedeschi hanno di che guardarci con l'occhio un pochino storto, ancora una volta, perché è questo terrorista che ha colpito a Berlino, insomma il profilo è molto semplice, tunisino, sbarcato a Lampedusa, condannato a 4 anni in Italia, espulso, mai messo in carcere e se lo ritrovano lì. Cara Stefania, proprio il classico profilo per farci volere bene in Germania. Beh, ho capito, però anche loro se lo sono fatti, come dire, un attimo sfuggire, nel senso che è vero che è passato da noi, perché è passato da Lampedusa e ce lo siamo tenuti 4 anni, però anche loro, osservato speciale da febbraio, poi è svampato, quindi voglio dire, non è che abbiano troppo da guardare la pagliuzza nel nostro occhio, francamente. Dici? Sicuramente questo è vero, noi dobbiamo aprire gli occhi sul fatto che anche noi abbiamo un problema di radicalizzazione in carcere. Sì, che secondo me è un, come dire, un grande... Beh, uno dei problemi seri di questi cosiddetti... Però, attenzione, scusami se interrompo, che però attenzione, devo dire, anche qua spezzo un'altra lancia, stamattina sono buonista. Bene. Alfano aveva sollevato questa questione nell'ultima conferenza stampa da ministro degli interni, dicendo attenzione perché uno dei grandi filoni che stiamo seguendo adesso e che non bisogna mollare è quello della radicalizzazione in carcere, perché inizia a diventare problematica anche in Italia. Il problema e la domanda chiave è questa, caro Bolelli, tutto ciò deve mettere in dubbio la politica dell'accoglienza? Merkel ha già detto di no, però qualche domanda è legittimo farsela e porsela o no? Oh, accidenti, altro che qualche domanda. No, non deve mettere in dubbio le basi fondamentali dell'accoglienza, deve mettere in dubbio, come dire, la capacità di distinguere, nel senso che l'accoglienza indiscriminata è, si è rivelata evidentemente, una totale follia. D'altra parte ce n'erano già tutte le premesse. Siccome si è sbagliato una volta, pensare di sbagliare sull'altro lato, ovvero diventare spaventosamente rigidi, è un disastro. Ci vorrebbero alcuni criteri in base ai quali distinguere, che non sempre sono facilissimi, per carità, è molto bello da dire, è più complicato da fare. Però io credo che il modo vero per accogliere chi deve essere accolto e va accolto nella maniera più assoluta è avere un occhio iperaperto e anche la capacità di essere molto duri nei confronti di chi non va accolto. Ripeto, sembra una cosa che è molto bella da dire, sì. Evidentemente per chi la fa un pochino più complicata. Difficile da fare, no, ma è chiaro. Per esempio, lei che reduce dall'America, tutta questa storia di Trump, altra vicenda, insomma, come va? Come butta? Facciamo questa cosa molto giovane, come butta Trump in America? Ma in questo momento mi sembra che diventa dato una tregua in attesa di vedere che cosa combina. E a me sembra che lui non si stia affatto muovendo male da questo punto di vista, o meglio, sta dando dei segnali completamente contraddittori. Sì. Com'è nel personaggio, com'è. Alcune nomine sono francamente abbastanza imbarazzanti, sì. Altre sono sorprendenti, ha avuto un'apertura enorme e non credo solo tattica. Nei confronti di tutta l'area delle nuove tecnologie, eccetera, eccetera, che è molto interessante perché non era da lui nella maniera più assoluta prima. Io credo che si tratta veramente di vedere, anche perché tutti sapevamo che le cose che lui ha detto in campagna elettorale da presidente non potrebbe neanche mai lontanamente sognarsi di farle. Erano un po' delle sparate così, certamente. Cioè per dire via tutti i musulmani, oppure non facciamo entrare i musulmani, cioè discriminazione dal punto di vista della religione. Ma poi la cosa non era neanche quella, cioè nel senso che le sparate che lui ha fatto si riferivano a chi compiva azioni criminali, il che tutto sommato è anche complicato da ritorno. Eh sì, però va bene, questa storia dell'accoglienza, tu cara Stefania, che dici? Cioè è tutto poi benzina sul fuoco per, qualcuno dirà, i populismi o comunque i movimenti che spingono a dire avete visto? Cioè proprio questo è il classico profilo di uno che è arrivato a Lampedusa, sì, certo. Poi espulso, poi la Tunisia non se l'è ripreso. Tutte le volte quando leggiamo espulsa questa persona e poi il risultato è questo, non puoi espellere una persona che il paese da cui proviene non vuole riprendersi, perché che fai? Lo butti a mare al confine tra i due paesi? No, no, ma è un cane che si morde la coda, però, perché come dicevo prima, quel che è successo in Italia è successo anche in Germania per questo distinto signore, perché lui praticamente è entrato e uscito 3 volte dalla Germania, in più a luglio, quindi diciamo 6 mesi fa, neanche meno di 6 mesi fa, viene espulso, come dici tu, identificato espulso e entra in un centro di detenzione e rientra dentro senza documenti, vuol dire che il problema non è l'accoglienza, il problema è il controllo. Sì, poi lascia stare che adesso partiranno già i complottisti. Guarda, io sono già lì 5, 4, 3, 2 perché ovviamente questa persona è scomparsa, ha lasciato tutto, ma avrebbe lasciato, e già su Repubblica oggi qualcuno ha scritto, in maniera strana ha lasciato in maniera spiegazzata sul camion una copia dei suoi documenti. La carta dell'espulsione. Esatto, e quindi subito partiranno. Ma è il controllo, è il controllo. E i tedeschi sono i primi responsabili. Permettimi se faccio questa riflessione. Perché non Se non altro, ieri per 24 ore ci hanno detto che c'era stato un eroe che aveva arrestato il colpevole. Poi era uno di passaggio. Insomma. Che non c'entrava niente. Esatto. Non c'entrava niente. Questo. No, bisogna fare in modo che i controlli siano effettivamente capillari, perché non ci si può permettere, con una politica di accoglienza che è quella che l'Europa ha deciso, di avere le maglie così larghe, cioè tre volte è entrato e uscito tre volte dalla Germania, non Lampedusa, che sappiamo come arrivano il barcone, scafiste e quant'altro, dalla Germania qualche controllo di più ci vuole. Comunque noi dobbiamo andare al traffico, poi rientriamo con Stefania Cavallaro e Franco Bolelli, anche altre cose da sentire. Per esempio, ma lo sapete che Berlusconi, raccontano tutti i giornali, ieri ha fatto la presentazione del libro di Bruno Vespa, e si sa, Berlusconi pare si voglia avvicinare a Gentiloni, fa pure rima, Berlusconi e Gentiloni, ma chissà, nuovo patto del Nazareno, vedremo. Manda il traffico, traffico, traffico, traffico. Ciao Alessandro, non avrei mai pensato di poterlo dire, ma dopo aver visto in questi giorni lo stato pietoso in cui versa Roma, devo dire che quasi quasi mi manca Marino. Ai politici il panettone alle magna, al popolo maina gioia. Ciao Milan, buongiorno. Uè, hai perso l'aereo? Il fatto che occorre nascondere il flop di Renzi. 60-40. Come? Che devo godere come un porco. Cioè, veramente, lasciatemi godere. Tenga il linguaggio, Freccero, che siamo in prima serata. Pubblicità! Vabbè, Freccero da David Parenzo che gode come un porco, dice lui, per la sconfitta di Renzi. Allora, caro Bolelli, qui ci sarebbero varie cose sulle quali, per esempio, Berlusconi Gentiloni, come le piace l'idea? Dice, è divertente, lui dice che lui è pronto, che Gentiloni è uno per bene, poi è pure Conte, per cui insomma, una cosa... Butta bene, dice. Butta bene, no, non lo so se butta bene, non so se butta bene per gli italiani. No, no. Politicamente ci sta nella maniera più assoluta. Cioè, è la logica conseguenza del risultato del referendum per certi aspetti. Cioè, e d'altra parte io credo che se posso, da politologo da bar, nella maniera più assoluta, fare una riflessione, è che l'errore più grosso di Renzi dal punto di vista tattico è stato l'allontanamento di Berlusconi con l'elezione di Mattarella. Sì. È lì che lui, perché altrimenti Berlusconi non aveva nessun motivo per stare dalla parte dei no. No, anche perché Berlusconi, certo, qualche problema elettorale adesso ce l'ha se va alle urne. L'unico modo per in qualche modo governare era attaccarsi al traino e al treno di Renzi. Però effettivamente sull'elezione di Mattarella al Quirinale, che poi anche lì poi Berlusconi in realtà si è pentito, si è riavvicinato a Mattarella, quindi tutti gli indizi. Ma Stefania Cavallaro, che Berlusconi lo incontra a colazione, ci può dire tutto di quello che succederà col tuo io boss. Io trovo questo l'ennesimo gesto di grande responsabilità di Silvio Berlusconi, che anziché come dire, fare i dispettucci dicendo di sono all'opposizione, quindi dico no perché voglio fare bastian contrario, dice perfetto, qua c'è un paese che ha bisogno di una guida, e quindi se il signor Gentiloni deciderà di lanciare provvedimenti positivi, noi li voteremo. La notizia è che abbiamo un'opposizione responsabile. Ma sì, ma ne fa anche un calcolo politico, nel senso che se adesso si andasse, oggi sondaggio su Repubblica, il PD è dato al 30%, sì, e il Movimento 5 Stelle al 28%, non è che il centrodestra, cioè, o si unisce a qualcuno, e non credo proprio al Movimento 5 Stelle, oppure non è che può andare al governo. Poi sai, c'è anche questa cosa di Fininvest. Vabbè, non è che noi stiamo benissimo, ma voi anche. Vabbè, dai, no, lasciamo stare. Assolutamente, non so di cosa stai parlando. Qua è l'unico, è Bolelli che scrive su Repubblica. Loro viaggiano a gonfie vele, insomma, totalmente da esterno. Vabbè, ma loro sono sani, sono belli, sono col vento in poppa e alle. Ecco, poi vi volevo chiedere questo. Io non so se voi siete esperti di banche. Io non sono esperto di banche. Dopo Oscar Giannino chiederemo, però. Caro Bolelli, ci ha messo 10 minuti ieri in Parlamento a trovare e a dare il via libera a eventuali 20 miliardi da dare per il salvataggio di Monte Paschi Siena. In Parlamento, track, bisogna fare la nazionalizzazione della banca. Io non mi intendo molto di banche, meno ancora di politica. È una mossa molto obamiana da questo punto di vista. In fondo è simile a quello che Obama ha fatto in America e dall'esterno, evitando appunto le facili demagogiche sparate, mi sembra in queste condizioni l'unica cosa da fare. Ecco, le banche diventano totalmente private, prescindono, e allora si prendono le stesse responsabilità che hanno altre aziende che falliscono, oppure nel momento in cui hanno un rapporto così forte con lo Stato è complicato lasciarle fallire. Sì, farle fallire è chiaro che è sempre una di quelle cose per cui poi i correntisti, le persone, è molto, non è come far fallire una qualsiasi azienda, insomma, ovviamente in quel caso ci sono i posti di lavoro e le persone che lavorano, le loro famiglie. Qui ci sono decine di migliaia di correntisti. Però, cara Stefania, però adesso devi fare su tutti, lo devi fare con tutte, hai creato il precedente. Esatto, la questione è questa: il sistema bancario non è poi così solido, e ci fossero altri istituti bancari in difficoltà, è chiaro che a quel punto tutti andrebbero a bussare al Parlamento a dire: ma come l'avete fatto per il Monte Paschi? E anche di diritto, forse dovrebbero iniziare a fare anche per le aziende, voglio dire, perché ci sono milioni di correntisti che, poveri loro, purtroppo rischiano di andare in malora per questa questione, e allora milioni di famiglie che rischiano di non avere più uno stipendio che entra in casa, cioè è veramente pericoloso. Io capisco la sussidiarietà dello Stato in queste situazioni, chiamiamola così, ma forse è una mossa azzardata perché crea un precedente pericolosissimo. E va bene. Ma Bolelli, quando, scusi, non volevo farti i fatti tuoi, ma un po' sì. Dove vivi quando sei in Italia? A Milano. A Milano, perfetto. No, perché volevo sapere qualcosa su Roma. Abito nel meraviglioso centro di Milano, quello per cui vorrei la secessione, che ha votato al 66% per il sì. Ah, la secessione, bellissima questa. E come la chiamiamo, la nuova Milano, il nuovo centro di Milano? Come lo chiamiamo? Il quadrilatero A parte la battuta sul centro, per carità. Io credo che l'idea giusta su Milano l'abbia avuta Stefano Boeri quando ha detto che Milano ha tutte le condizioni per diventare come Londra o come altre città, una città-stato. Perché oggi oggettivamente è un traino straordinario dal punto di vista delle idee, dei progetti, del suo ruolo e dell'immagine stessa che ha. Sì. È una storia da sperimentare, perché credo che quello di città-stato sia un'idea molto interessante da questo punto di vista. È interessante, cioè, il vero leghista è Franco Bolelli, altro che no, cioè, voglio dire, voi pensate che possa essere Bossi Umberto, Salvini ormai no, all'acqua di rosa, Salvini ormai guarda la Sicilia, eccetera. Invece Bolelli vorrebbe la città-stato, ma neanche con la perifa dove abita la Cavallaro, neanche con la volgare periferia, proprio la, cioè, ma dove mettiamo la prima cerchia? Per chi non è esperto di Milano, cioè la prima cerchia, superiamo la prima cerchia per la città-stato, rifacciamo le mura? Città-stato tutta quanta, teniamoli tutti, anche Quarto Giaro, in fondo siamo democratici. Via Padova, io abito vicino a Via Padova, per esempio, dovrei fare Cavallaro. Tu, Stefania, da che zona? Adesso non è che ti chiedo un indirizzo. No, io abito fuori Milano. Sono una pendolare, di quelle che si mette in tange la mattina torna la sera. No, per carità, passaporto e vedremo un po' il visto. Decreto di espulsione a rischio. Esatto. No, però noi nella nostra infinita benevolenza e nel progetto di accoglienza Stefania la vogliamo. Va bene. Una nomina ad personam. Grazie. Allora, io da qualche giorno, anche se ripeto, Giachetti ha preso le distanze dalla sua stessa frase dicendo ho perso la Brocca. Qui a 24 mattino al Parlamento abbiamo deciso di istituire il nostro premio. Hai la faccia come il culo. Avete la faccia come il culo. E allora, caro Bolelli, cara Stefania Cavallaro, avete tutto il diritto, senza timore di querele, di poter dire secondo voi chi è, a chi va aggiudicato per oggi, insomma, chi pensate, se doveste pensare al premio faccia da culo, insomma, è questo, caro Bolelli. Così. Oddio, non mi viene particolarmente in mente. Così è anche in tutto il mondo, spaziando, in tutti i campi. No, ma restiamo in Italia, io devo ammettere che mi attirerò un po' più di strali, tanto normale, che la logica dei grillini se lo merita costantemente, giorno per giorno. Quindi, i grillini così, tout court, proprio i grillini. Soprattutto sì, perché la logica dei due pesi e due misure, del dire una cosa un giorno e nel fare l'opposto solo perché tatticamente fa comodo in quel momento, no, non va bene. Cioè. Non va bene, e poi la segna stampa tra poco dirò che a Roma ci sono altri problemucci mica male. Tu, cara Stefania, cosa che facciamo? Ah, andare all'Inter, alto. Alla tua Inter? No, io sparo alto, io dico a chi sta cercando la scalata, di fare la scalata di meglio. Perché dire che non c'è nessun tipo di manovra, di fare nessun tipo di scalata nei confronti della nostra azienda, andando poi a cercare il ribasso del prezzo del titolo, è veramente, ma veramente vergognoso. Te capì Bolloré? Va bene. Dai, io vi devo augurare, cioè sono contento di augurarvi buon Natale, vi devo augurare perché il tempo è finito. Stefania Cavallaro e Franco Bolelli, grazie davvero per essere stati con noi. Ci risentiremo prossimamente. E all'inmila Eli e gestisci un lanciano di Giammia 24 mattino. Ci siamo, cari ascoltatori, sono le 7:20 minuti, siamo qui per leggere i giornali con voi e per voi, in onda fino a domani, poi io mi fermerò un paio di settimane. Peter Bescapè invece sta qui a lavorare, Lorenzo Nespoli pensa di andare in vacanza, ma adesso stiamo lavorando per farlo rimanere qui. E allora dai, siamo pronti? La rassegna stampa di 24 mattino, ci siamo, andiamo! Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. In questo giovedì 22 dicembre intanto le aperture che sono diversificate, l'apertura del Sole 24 Ore sul Monte Paschi, la conversione non basta, arriva il decreto salva banche, questo è il titolo di prima pagina. Poi certo Berlino è ancora in primo piano per molti quotidiani, anche perché tutto ciò ci lega, nel senso che il terrorista ricercato è sbarcato a Lampedusa qualche anno fa e ha passato qualche anno in carcere, era stato espulso dall'Italia, eccolo qui, sono il terrorista venuto dall'Italia, questo è il titolo del Corriere della Sera, mentre la stampa, fuggito dall'Italia, il killer di Berlino. L'apertura del Messaggero, lo stragista cresciuto in Italia. La verità, terrorista con il permesso, ricercato un tunisino sbarcato in Italia. Per il Giornale, il killer di Berlino era profugo in Italia. Il Giorno, il killer era in cella in Italia, mentre Avvenire mette così reagisce Berlino, i musulmani alla veglia di Natale con i cristiani. Quotidiani che invece mettono in apertura altre notizie, Repubblica, la vicenda Roma, Marra, atti ai PM, ora Raggi può finire indagata, e l'Unità, la parentopoli dei grillini. Il Manifesto invece, col ministro Poletti, definito il precario, titolo di prima pagina, ci sono ancora le polemiche, le vedremo su Poletti. Il Fatto Quotidiano invece, la soffiata agli appalti, papà Renzi, indagato il comandante dell'arma, è un'esclusiva del Fatto Quotidiano, è indagato il capo dei carabinieri che ha svelato le indagini per la corruzione nella commessa cui punta un imprenditore, l'imprenditore Romeo. Titolo invece di Libero, politica pura, Silvio salta di là, Forza Italia vota col governo per salvare la banca del Partito Democratico. Ma voglio partire da Berlino, dalla vicenda della ricerca ossessiva di questo tunisino Anis Amri, 24 anni. La polizia tedesca ha messo su di lui una taglia da 100.000 euro. È colui che è il maggiore sospettato per questo attentato di Berlino. Racconta Paolo Berizzi a pagina 3 di Repubblica il viaggio di Anis, 4 anni in Italia tra cella e reclutatori, dalle coste di Lampedusa alle bancarelle natalizie di Breitscheid Platz, da una carretta del mare al volante di un tir bomba. È questa la parabola discendente di Anis Amri, 24 anni proprio oggi, tunisino da tempo sotto sorveglianza, sospettato di preparare un attentato contro lo Stato, un classico del dopo. Capelli e basette scure, nero il cappellino che indossa in una foto, almeno 6 le false identità da giocarsi tra Italia e Germania, i paesi dove Amri trascorre più che altro in carcere, prima a Catania, poi a Palermo, i suoi ultimi 7 anni. Dopo essere sbarcato a Lampedusa nel 2011, dopo aver appiccato lo stesso anno un rogo al centro di accoglienza dell'isola insieme ad altri migranti, e intanto la jihad a chilometro zero gli entrava sotto pelle. I contatti con il predicatore salafita Abu Wala, uomo forte dell'ISIS in Germania, i like su Facebook al gruppo jihadista tunisino Ansar al-Sharia, poi l'ordine del califfato di colpire nel mucchio usando i camion, modello Nizza. Detto e fatto, mentre la polizia in teoria lo teneva d'occhio. Questo è un po' il profilo che trovate su tutti i giornali, guardate anche il titolo della Stampa, eccolo qua. Dallo sbarco a Lampedusa, la mancata espulsione, 5 anni di Anis in Italia. C'è poi l'analisi sul Corriere della Sera di Francesco Battistini e Guido Limpio sul filo che lega il killer ai salafiti. In regia c'è l'uomo senza faccia. Questo è il titolo di pagina 3. C'è un rapporto con il reclutatore dell'ISIS, Abu Wala. Abu Wala è considerato uno dei reclutatori dell'ISIS in Germania, attivo in rete, ha 25.000 fan su Facebook. L'uomo è stato arrestato in novembre con altre 4 persone in una retata antiterrorismo e si racconta dei legami con questo tunisino. Ovviamente si guarda l'Italia. Le misure sulla sicurezza in Italia saranno diverse per ogni città. Questo ha detto il neo ministro all'interno Marco Minniti. I nemici più pericolosi sono i lupi solitari, leggo dall'articolo di Fiorenza Sarzanini, non è un'intervista ma qualche stralcio di dichiarazione del ministro dell'interno. C'è un cambio di strategia per cercare di fronteggiare una minaccia totalmente imprevedibile, dice proprio così, imprevedibile, il ministro dell'interno Marco Minniti a poche ore dall'attentato che ha sconvolto la Germania. E cosa evidenzia? Evidenzia l'assoluta casualità del mezzo scelto per colpire a Berlino, camion rubato per strada, ma anche quella dell'obiettivo, un mercatino di Natale come ce ne sono a migliaia. Per questo Minniti indica le nuove linee di intervento per gli apparati di sicurezza, e cioè un modello di difesa che coinvolga tutte le forze territoriali, dal prefetto al sindaco, passando per la polizia locale. Dunque, non ci saranno più liste di obiettivi uguali in tutta Italia, ma misure modulate rispetto alle realtà di regioni e comuni che sono diverse e come tali devono essere trattate. Per esempio ci sono le foto che in Duomo, a Milano, davanti al Duomo stanno mettendo le barriere anticamion. A Bolzano avremo ospite il sindaco di Bolzano alle 8.20. Pare ci siano addirittura i cecchini, le persone pronte a sparare per proteggere i mercatini di Bolzano. È chiaro che adesso c'è la tendenza, il terrore a proteggersi in tutti i modi. Vediamo se poi questa è la linea che passerà. Va bene, lasciamo l'ambito terrorismo, la lotta al terrorismo, prima di buttarci nella politica italiana, negli articoli sulla politica italiana, sulla cronaca, sul Monte Paschi, eccetera. 2 o 3 notizie di cronaca che mi hanno colpito dall'Italia. Intanto questa in prima pagina di Repubblica, Eleonora Capelli racconta in prima pagina e poi continua pagina 21, niente cibo al museo e viene allontanata la mamma che voleva allattare. Ma addirittura. Ebbene sì, a Bologna tra l'altro succede, via col figlio di 5 mesi. Dice questa donna che sostiene, sono stata allontanata da un museo, volevo allattare mia figlia di 5 mesi. Davanti alle opere del pittore Volfango in mostra a Bologna, si è sentita dire che non era possibile, a causa di che cosa? Beh, del divieto di introdurre cibi e bevande. La vicenda raccontata da Chiara Cretella, quarantenne assegnista di ricerca all'Università di Bologna, è solo l'ultimo caso che solleva il tema dell'allattamento in pubblico. Questa neomamma si è scontrata con la dura realtà che i suoi studi cercano di indagare, visto che analizza le politiche di genere all'università. Ebbene, dice, era un convegno a Palazzo Accursio, sede del comune, volevo sedermi nella saletta dove è allestita la mostra per allattare mio figlio, ma mi è stato detto che non potevo per il divieto di introdurre cibi e bevande. Ecco qui il caso della donna allontanata, la neomamma, adesso a Bologna minimizzano, dicono ma no, c'è stato un disguido, la volevano solo accomodare in un'altra zona, sono ben accolte, però insomma la polemica è servita sui giornali. Ma ecco qui l'articolo invece che mi fa più incazzare della giornata, l'articolo da mani sul volante, mani sul manubrio, mani sui braccioli se siete in treno, mani sulle giostre se c'è un parco giochi vicino a voi, succede a Premosello in provincia di Verbania e racconta tutto la stampa, pagina 14, i bimbi fanno troppo rumore e una coppia di anziani a suon di 30 querele negli ultimi 5 anni fanno chiudere il parco giochi. Ebbene sì, hanno fatto la figura degli Erode, ma il loro avvocato precisa non ce l'hanno con i bambini, sono però loro una coppia non ancora anziana, a dir la verità, scrive la stampa, ad aver avviato una causa civile che ha condannato il comune di Premosello Chiovenda, 2000 abitanti in Ossola, a una sentenza che se facesse giurisprudenza porterebbe alla cancellazione di tutti i parchi gioco nei centri abitati. E cioè gli schiamazzi, i rumori dei bambini che giocano, le altalene, gli scivoli creano un livello di decibel per cui la vita di questa coppia è impossibile, privandoli del riposo visto che vivono proprio sopra il parco giochi. Per carità, cioè, c'è anche da condannarli. Provate a stare voi e dire, beh, certo, i bambini, beh, state voi davanti a 50 bambini schiamazzanti tutto il giorno. Comunque, i bambini fanno troppo rumore e fanno chiudere il parco giochi. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. L'ha detto Agamennone, l'ha confermato Nettuno, Alessandro Milan non lo batte nessuno! E alle, allora, alle 7.32 minuti, ultimo giorno di scuola, quindi filare a scuola, come ho detto anche ieri. Allora, cari ascoltatori, la politica, iniziamo da qui. Intanto sta succedendo qualcosa. Il titolo di prima pagina di Libero è emblematico. Silvio salta di là. Ebbene sì, e se ci fosse un nuovo patto del Nazareno? E se ci fosse una sorta di nuova riedizione di quell'avvicinamento tra Silvio Berlusconi e il PD, in questo caso il premier Gentiloni? Fanno pure rima, Berlusconi, Gentiloni. E tra l'altro ricordate il patto del Nazareno rotto sull'elezione del Presidente della Repubblica Mattarella, ma poi Berlusconi si è riavvicinato con Mattarella e ieri alla presentazione tradizionale del libro di Bruno Vespa Berlusconi ha detto qualche frase che non è sfuggita ai giornali. Tommaso Labate racconta pagina 11, noi siamo responsabili, lui per bene e Berlusconi loda Gentiloni, non abbiamo pregiudizi sul governo, sia il sistema tedesco, sia la grande coalizione. E poi, volete qualcosa di più? Questa frase riservata a Salvini, in teoria il partner naturale di un'alleanza di centrodestra di Silvio Berlusconi. Eppure Berlusconi di Salvini ha detto questo come titolo al giornale a pagina 18. Le uscite di Salvini sono da giovane comunista. Ebbene, il cavaliere che spinge sul proporzionale ha anche indicato il possibile premier candidato per il centrodestra, e questo è un vecchio pallino, cioè il governatore della BCE Mario Draghi, ha detto Berlusconi, sarebbe lui, Mario Draghi, un perfetto prossimo nostro candidato premier. Ebbene, scarica la Lega, si avvicina a Gentiloni, dice una persona per bene, e chissà, chissà, ci sarà forse una nuova riedizione del patto del Nazareno, staremo a vedere se sorrose fioriranno. Intanto c'è un membro del governo che davvero è sotto attacco e l'attacco invece dopo la gaffa sui giovani che sono andati via dall'Italia e la parte in cui ha detto che alcuni è meglio perderli, è meglio che se ne stiano fuori dalle scatole, fuori dai piedi, ha detto così il ministro del lavoro Poletti, e sono passati 3 giorni e le polemiche sono tutt'altro che diminuite, anzi. Ieri è stata anche presentata una mozione di sfiducia da Movimento 5 Stelle e Lega e anche qui qualcuno vede una sorta di, come dire, primo primo atto in cui il Movimento 5 Stelle e Lega fanno una mozione di sfiducia, fanno una sorta di avvicinamento. Dopo questa gaffe, Poletti, che di fronte alla domanda si dimette, risponde no, in maniera decisa. Comunque sui giornali è ancora bufera. Caso Poletti, è bufera anche sul figlio. La sinistra PD via i voucher oppure ci sarà la sfiducia. Voteremo la sfiducia a Poletti. Guardate qui Repubblica, Poletti ora all'angolo, mozione Movimento 5 Stelle Lega, la sinistra del PD avverte, via i voucher o via lui. La Stampa, mozione di sfiducia contro Poletti, minoranza PD no ai voucher o sarà sì. E poi il figlio di Poletti che lavora in un, come giornalista, direttore in un giornale di una cooperativa che prende soldi pubblici, che dice però non sono favorito dal fatto di essere figlio del ministro, e che invece di chiudersi in questi casi bisognerebbe farlo come proprio elemento principale della comunicazione per evitare di alimentare nuove polemiche, bisognerebbe chiudersi in un religiosissimo silenzio. E invece ha fatto un'intervista ieri al Fatto Quotidiano e oggi rilascia nuova intervista. Una nuova intervista alla Stampa, guardate qui, pagina 9. Posso capire che il suo telefono sia bollente con colleghi che lo chiamano a tutte le ore. Andrea Carugati lo intervista a pagina 9 della Stampa. Il mio giornale prese i fondi quando papà non era in politica. Il settimanale Sette Sere, che si è fuso con Qui Magazine, che già percepiva fondi pubblici da anni come altre testate, le prendeva quando mio padre neppure pensava di fare politica. Beh, era il presidente della, comunque delle cooperative. Qualcuno davvero pensa che io debba cambiare lavoro perché mio padre fa il ministro? Chiede Manuel Poletti, figlio del ministro Poletti, alla Stampa. Dunque non ci sono condizioni di privilegio per lei. Ma per carità, mi viene da ridere. Faccio il giornalista da 20 anni, per 10 da precario, poi mi sono stabilizzato. Anch'io sono stato all'estero per un periodo, poi sono tornato. Mio padre ha usato una frase infelice, ma il concetto ha un fondamento. Non si può dire che i migliori vanno all'estero e in Italia restano solo i mediocri. E infatti questa parte della frase, aggiungo io, nessuno l'ha contestata, è una frase condivisibile, mica è scontato, ma è quello che ha aggiunto dopo. Suo padre, chiede la Stampa, ha fatto la parte del politico sprezzante coi giovani senza lavoro. Questo mi fa arrabbiare, risponde il figlio, perché è l'esatto opposto di come lui è realmente. Ha a cuore il tema del lavoro dei giovani, ha lavorato molto sul progetto Garanzia Giovani e anche l'anticipo delle pensioni servirà a creare più spazi sul mercato del lavoro. Comunque sono certo che sia dispiaciuto, ma se lo conosco bene è uno che non molla e non si dimetterà. Così Manuel Poletti, intervistato sulla Stampa. Il Corriere con Fabrizio Roncone fa una pagina intera in cui si riepilogano le gaffe in questi anni di Poletti. E anche, guardate, Michele Serra su Repubblica dedica la sua amaca. Esternazioni come quella del ministro del lavoro Poletti sui giovani italiani all'estero sono talmente catastrofiche nella formulazione così come negli effetti che viene da domandarsi se non esista nel potere italiano una sindrome autodistruttiva. Se uno prova a chiedersi quale interesse politico, anche minimo, anche remoto, possa aver ispirato parole così irragionevoli, la risposta è nessuno. A nessun uomo di governo o di opposizione, a nessun partito, a nessuna corrente di pensiero può venire in mente in un momento di grave e strutturale crisi del lavoro, specie quello giovanile, di confezionare quella specie di freddura leggera o di invettiva cinica, non si è capito bene, uscita di bocca a Poletti, inevitabilmente rimbalzata con fragore sui media. E dunque, se non si riesce a cogliere alcuna razio nel pensiero espresso da Poletti a proposito dei cosiddetti cervelli in fuga, si torna al sospetto di cui sopra, che l'autodistruzione sia l'obiettivo, conscio o inconscio, di buona parte della classe dirigente italiana, cosa che suscita il comprensivo giubilo di chi anela di prenderne il posto e lo sbigottito sconcerto di chi vorrebbe, molto banalmente, che chiunque governi sia responsabile di ciò che fa e di ciò che dice. Questa è la maca di Michele Serra, la trovate su Repubblica, pagina 34. Beh, se Poletti non passa buone ore, non passa buone ore anche Virginia Raggi, sindaco di Roma. Ieri è arrivato un duro colpo da Cantone, capo dell'anticorruzione. Cantone contro Raggi, l'atto d'accusa su Marra. Leggo anche l'articolo del Sole 24 Ore, pagina 9, Ivan Cimarusti e Emanuela Perrone. ANAC, Marra in conflitto di interessi. Raggi sapeva, questa è l'accusa di Cantone. Raffaele Marra, da responsabile personale del Campidoglio, era in palese conflitto di interessi quando ha partecipato alla nomina del fratello Renato, vice comandante della Polizia Municipale, a capo della direzione turismo del Comune di Roma. La sindaca Virginia Raggi lo sapeva, avendo ammesso di essere a conoscenza del rapporto di parentela tra i due Marra sin dal giorno dell'insediamento, e avrebbe dunque dovuto esonerare il dottor Marra da ogni partecipazione, anche se solo meramente pedissequa all'atto di nomina del fratello. Questo si legge nel fendente, come scrive il Sole 24 Ore, foriero di guai politici e giudiziari mollato da Raffaele Cantone alla Raggi. Guai politici perché nel Movimento 5 Stelle dalla base ai vertici la tensione è salita oltre il livello di guardia e la posizione di Raggi, a dispetto di dichiarazione ufficiale, viene dai più ritenuta insostenibile. Pensate che, salto su Repubblica, c'è questo retroscena di Annalisa Cuzzocrea a pagina 10 e viene attribuita a Grillo, a Beppe Grillo, la seguente frase: a Roma sta finendo tutto. Grillo teme la slavina. Chi ha sentito lui nelle ultime ore lo descrive come un uomo arreso davanti all'ennesima notizia negativa sulla Raggi, cioè il parere dell'ANAC sulla promozione del fratello di Marra. Il fondatore del movimento ha allargato le braccia dicendo: non c'è più niente da fare. Eppure la soluzione ideata la scorsa settimana era studiata in un'ottica di lungo periodo. Via il raggio magico, lontani dal gabinetto della sindaca Daniele Frongia e Salvatore Romeo. Un ruolo nuovo per l'assessore alle partecipate, amico di Grillo e Casaleggio, Massimo Colomban. Un assessore all'ambiente come Pinuccia Montanari. Eppure, questo scudo stellare che le abbiamo costruito, dice sempre, secondo questo retroscena, Grillo, potrebbe non essere sufficiente. Che cosa potrebbe far franare tutto? Beh, tutti attendono un possibile avviso di garanzia per questa vicenda. Tra l'altro fa sapere Repubblica che con Flaminia Savelli a pagina 11 ci sono anche altri politici che sono finiti nel cosiddetto Palazzo di Marra, cioè il residence a 5 stelle del costruttore Sergio Scarpellini, in cui abitava Raffaele Marra, con questo appartamento pare comprato con prezzi generosi, dove viveva Marra, ma dove vivono anche, in quella stessa palazzina, dice Repubblica, all'Acqua Cetosa, anche Gianfranco Zambelli e Luciano Ciocchetti, il primo consigliere regionale del PD e l'altro vicepresidente della regione Lazio. E Repubblica si concentra anche su questi due politici che hanno comprato dal costruttore Scarpellini arrestato. C'è un altro problema riguardo a Roma, e c'è la questione del bilancio bocciato. Parla l'assessore al bilancio di Roma, Andrea Mazzillo, lo fa con il Corriere della Sera, pagina 15. Sono offeso da questi revisori. Loro sono dei sorteggiati. Io l'esperienza ce l'ho. L'assessore Mazzillo dice: il problema non è la mia esperienza, che è notevole. Il problema sono loro, i revisori, sorteggiati. Non hanno esperienze e strutture complesse come il Comune di Roma. Magari non sono neanche bene informati, altrimenti il parere sarebbe stato diverso. Il dialogo è il concetto alla base delle relazioni, ma non è un attacco alle persone. Dico solo che il ruolo di questo organismo, OREF, è di supporto. Stanno all'interno del comune, vicino alla ragioneria. Siamo sorpresi di questo strano parere. Ci hanno messo 33 giorni per esprimersi, il regolamento ne prevede 30. Potevano chiedere approfondimenti, aspettare, integrare. Invece la procedura è stata insolita. Per due volte l'assessore Mazzillo parla di strano parere e procedura insolita. Per carità, io non lo so, non voglio dare un giudizio, non vorrei che si scadesse nel gomblotto anche in questo caso, come sempre è il modo in Italia per condire via le questioni. Tra l'altro, in questo scenario politico molto complicato, molto frastagliato, Berlusconi che si avvicina a Gentiloni, la Raggi e il Movimento 5 Stelle che ha delle difficoltà lì, il PD che ha delle difficoltà enormi, visto che c'è non solo la vicenda Poletti, il referendum perso, il governo cambiato. Però è interessante l'atlante politico di Ilvo Diamanti, a pagina 9 di Repubblica, a raccontare che sostanzialmente dopo il referendum nei sondaggi tra gli italiani non è che sia cambiato tantissimo. Sì, Grillo paga un po' il caso Roma, il PD è fermo al 30%, il governo ha bassa fiducia, ma la vera notizia è che non sembra sia cambiato molto nell'orientamento degli elettori, sia verso il governo, verso i partiti, verso lo stesso Renzi. Il PD, secondo il sondaggio di Ilvo Diamanti, è attestato al 30%, appena sopra il 30%. Il Movimento 5 Stelle è quasi 2 punti sotto, quindi appena sopra il 28%, e in calo di 1 punto, nonostante le difficoltà, nonostante la questione di Roma, eccetera. Insomma, il confronto elettorale sembra ancora polarizzato in questa alternativa tra PD e Movimento 5 Stelle. Gli altri partiti restano a distanza, la Lega e Forza Italia intorno al 13%, tutto il resto dal 5% in giù. Questo è l'atlante politico secondo il buon Ilvo Diamanti. Vabbè, ovviamente il debosciato è in ferie, si tratta di Mauro Meazza, ma ci abbiamo il suo urlo di battaglia oppure lo devo urlare io l'urlo di battaglia? Va bene, non faccio come lo farebbe Mauro Meazza, lui, gongolante, trionfante, 3-0 alla Lazio, traffico! Alino, leggi anche il Carlino! Va meglio. Ho l'edizione Il Giorno, quella di Milano, ma va bene, eccoci qua. Dopo c'è un articolo dal Giorno se riesco a leggerlo. Allora, Montepaschi, oggi dovete leggere con estrema attenzione Il Sole 24 Ore perché racconta tutto, tutti i giornali, insomma, sono pieni della vicenda che davvero porta ormai l'intervento pubblico come previsione certa, quasi certa oggi. Allora, dai bond sono arrivati, dalla conversione dei bond Montepaschi, 2,44 miliardi di euro. Se ne cercano 5 entro oggi, capite che è un po' dura. Il fondo sovrano del Qatar peraltro si è sfilato e dunque si profila l'intervento del governo per il salvataggio del Montepaschi. Già oggi potrebbe esserci il decreto del governo. D'altronde Marco Ferrando racconta a pagina 2, i bond non bastano, in arrivo lo Stato, questo è il titolo emblematico. Dagli obbligazionisti è arrivato anche più del previsto, 2,44 miliardi appunto, ma non basta. Il tentativo di salvataggio privato del Montepaschi sembra infrangersi contro lo scoglio degli anchor investor. Nessuno, a partire dal fondo sovrano del Qatar, sembra disposto a mettere sul tavolo diverse centinaia di milioni in un colpo solo e senza un investitore rilevante non si può proseguire nella ricerca sul mercato di 5 miliardi richiesti dalla BCE. Così per l'ingresso dello Stato ormai questione di ore. Già oggi il CDA della banca potrebbe decidere di alzare bandiera bianca passando la palla al governo e all'approvazione del decreto per il salvataggio pubblico. Questo è lo scenario, tra l'altro Gianni Trovati racconta, pagina 3, che ieri è arrivato in Parlamento l'ok al plafond da 20 miliardi per il salvataggio delle banche, chiesto il 19 dicembre a Camera e Senato da Gentiloni, cioè la possibilità di utilizzare fino a 20 miliardi per il 2017 per il salvataggio delle banche. E ieri il Parlamento ha dato il via libera. Non tutti, la Lega ha votato no, il Movimento 5 Stelle, credo anche i Fittiani. Però questo via libera c'è stato e dunque è il primo ostacolo superato. Oggi o domani c'è il Consiglio dei Ministri per questo decreto. Questo ormai è uno scenario abbastanza delineato e tra l'altro qui si fa vedere e si racconta, visto che ho detto dell'avvicinamento Berlusconi col PD, il fatto che appunto Berlusconi ha detto sì a questo voto in Parlamento e quindi una sorta di riavvicinamento. Sapete che Berlusconi ha anche qualche problema con l'azienda, con Fininvest, che viene scalata da Vivendi Bolloré, e quindi tutto porta anche a questo scenario politico di una sorta di riavvicinamento, coalizione tra PD e Forza Italia. Ma anche questo, se son rose fioriranno e si vedrà. Certo, Libero è un po' critico nel titolo di pagina 4, il Parlamento trova 20 miliardi in 10 minuti per l'ex banca del PD. Non sono ovviamente tutti per Montepaschi, 20 miliardi per il piano salvataggio di banche, a Montepaschi ne servono 5. Lo Stato è pronto a entrare. Sento già, lo vedo già là Oscar, il nostro Oscar Giannino oggi sarà molto molto allegro, lo accoglieremo con questa bella notizia il 22 di dicembre 2016. Oh, voglio saltare invece su Italia Oggi, che ha un'apertura legata a questo, sempre questioni finanziarie, economiche, ma di altro tipo, la reversibilità per le unioni gay. C'è una circolare dell'INPS che spiega che dal 5 giugno sono estese ai partner delle unioni civili le identiche prestazioni pensionistiche e assistenziali già previste per i coniugi. Daniele Cirioli racconta che dunque dall'INPS è via operativa l'equiparazione prevista dalla legge 76 del 2016, la via libera all'equiparazione al coniuge del componente dell'unione civile ai fini previdenziali. Questo magari susciterà nuove polemiche. Per chi è contro le unioni civili staremo a vedere. Voglio ora saltare però sul Fatto Quotidiano, l'ho tenuto qui perché il Fatto Quotidiano è una notizia sicuramente in esclusiva. Certo, se il Fatto Quotidiano non si nascondesse sotto gli altri giornali sarebbe meglio. Guarda Travaglio, che scherzi che ti fa. Eccolo qua. La soffiata, gli appalti, papà Renzi, indagato il comandante dell'arma. Marco Lillo a pagina 2 racconta di questa inchiesta. Un'inchiesta che coinvolge la Consip, cioè la società attraverso cui si acquistano, e tutta la pubblica amministrazione acquista le proprie forniture. Indagato Del Sette, chi è? È il comandante generale dei Carabinieri, Tullio Del Sette, indagato per favoreggiamento, rivelazione del segreto istruttorio nell'ambito di questa inchiesta sugli appalti Consip. Un'inchiesta, scrive il Fatto, che lambisce il cosiddetto giglio magico e lambisce il padre di Renzi, Tiziano, che non è comunque indagato, ma il cui nome è tirato in ballo nelle carte. È una inchiesta dei PM napoletani Woodcock, Enrica Parascandolo e Celeste Carrano, e questo è l'accusa. Secondo i PM, il comandante dei Carabinieri ha spifferato le indagini e le microspie per corruzione nel superaffare. Pagina 2 e 3 del Fatto Quotidiano è questa esclusiva che il quotidiano di Travaglio mette in prima pagina. C'è da dire che c'è molto di cronaca nera, soprattutto la condanna in primo grado a 20 anni al marito di Roberta Ragusa, scomparsa nella notte del 13 gennaio 2012, mai trovata, ma il marito è stato condannato per omicidio volontario e soppressione di cadavere al massimo della pena possibile nel rito abbreviato, vale a dire 20 anni di carcere. L'omicidio Ragusa, ma ci sarà poi l'appello, e ricordiamo tra l'altro non è mai stata trovata questa donna, non è mai stato trovato il cadavere. Eccolo qua l'articolo del giorno del Carlino. Succede a Monza una vicenda un po' strana, bizzarra: non mi paga le cure ormonali e il padre del trans finisce alla sbarra. L'accusa del figlio che vuole diventare trans: mio padre e i miei genitori mi maltrattano, non mi pagano le cure ormonali, e li denuncia. E c'è tutto un processo che va avanti a Monza, questo racconta il giorno. Va bene, dai, siamo alla carta costa. Qual è la carta costa? La carta igienica, ovviamente. Una pagina intera della verità dedicata alla storia della carta igienica che compie 160 anni. La carta igienica costa. Ma chi se ne frega!